sono le 13. GR24, il sole 24 ore, edizione extra large. Cade un aereo della Turkish Airlines ad Amsterdam, sarebbero almeno 5 le vittime. In Cina 3 persone si danno fuoco vicino a piazza Tiananmen, forse motivi politici. Torneremo più forti di prima, ecco il primo discorso di Barack Obama al congresso. Mai così in basso le vendite al dettaglio in Italia dal 97, meno 1,9% su base annua. Caccia a Napoli all'uomo che ha violentato un bambino di 12 anni. Poco fa il via libera del Senato, il disegno di legge Brunetta di riforma della pubblica amministrazione è legge. Una buona giornata da Simone Spezia ed Alessandra Tedesco. E benvenuti a questa nuova edizione del GR Extra Large, che apriamo con il disastro aereo che è avvenuto ad Amsterdam. Si è venuto questa mattina all'aeroporto di Schiphol in fase di atterraggio. Un Boeing 737 della compagnia di bandiera turca Turkish Airlines si è spezzato in 3 parti. Allora ci colleghiamo con Istanbul, con la nostra Marta Ottaviani. Marta, allora che cosa si sa di questo incidente? Si sa che la faccenda si tinge di giallo, c'è una guerra di cifre in questo momento, non solo tra la compagnia aerea e le autorità di sicurezza olandesi, ma anche appunto tra il Ministero dei Trasporti turco e la televisione olandese. Questa mattina, subito dopo la tragedia, il Ministro dei Trasporti turco, Binali Indirim, aveva detto che per fortuna lo schianto si era risolto senza vittime. Invece la televisione olandese ha detto che i morti sarebbero 5. Intanto la Doana Berajans, uno dei media più accreditati del paese, ha detto che l'aereo non sarebbe caduto ma si sarebbe schiantato dopo aver mancato praticamente la pista d'atterraggio, ma ha anche aggiunto che le condizioni meteo della pista al momento della tragedia erano da considerarsi nella norma, quindi appunto c'è ancora, è ancora incerto a quale sia stata la reale dinamica dei fatti. I testimoni, i sopravvissuti, che comunque sono la stragrande maggioranza dei 137 passeggeri presenti sulla aereo, hanno detto che tutto è successo da 5 a 10 secondi e che non sono nemmeno stati avvertiti prima dall'allarme interno all'aereo, proprio perché tutto si è svolto con grandissima rapidità. Per il momento da Istanbul è tutto, vi restituisco la linea. Grazie Marta Ottaviani, torneremo a collegarci nel corso del GR Extra Large con te per altri aggiornamenti. Adesso andiamo negli Stati Uniti. Sì, andiamo negli Stati Uniti per il discorso di Barack Obama. But while our economy may be weakened and our confidence shaken, La prima parola che abbiamo scelto qua, l'avete sentita, è stato un discorso prevalentemente incentrato naturalmente sulla crisi economica. Ed è stato il primo discorso del neo presidente degli Stati Uniti pronunciato davanti al Parlamento. Obama quindi ha lanciato un appello nel campo economico a rimboccarsi le maniche. Sentiamo la corrispondenza da New York. Siamo alla resa dei conti con questa frase. Barack Obama ha cercato ieri notte di scuotere gli americani dall'apatia psicologica in cui si trovano nel mezzo di questa terribile crisi economica. Lo ha fatto con un discorso alla nazione drammatico, incisivo e per una volta ottimistico, in cui ha promesso che il carattere e la forza delle idee prevarranno sul pessimismo. Anche se viviamo in tempi difficili, ha detto Obama, voglio che ciascun americano sappia che ricostruiremo, ci riprenderemo e gli Stati Uniti d'America riemergeranno più forti di prima. Un ottimismo di stampo reganiano, un discorso di 52 minuti, 60 ovazioni, Michelle, la moglie in sala, nel Parlamento riunito in seduta plenaria, circondata da persone simbolo dell'eroismo americano. Obama ha promesso che il suo piano di stimoli funzionerà, che le sue spese nell'educazione, nell'energia, nella sanità ricostruiranno le fondamenta morali ed economiche del paese, riporteranno il lavoro. L'obiettivo era anche quello di convincere il mercato, che finora non l'ha seguito, che la sua leadership sarà davvero in grado di trascinare il paese, come ha dimostrato la sua straordinaria e storica vittoria elettorale. Ma le incertezze sul settore bancario restano e su quelle Obama ieri notte non ha detto nulla di nuovo. Mario Platero, GR24, Il Sole 24 Ore, New York. Restiamo all'estero per una storia che arriva dalla Cina e una vicenda di cronaca che forse ha dei risvolti politici, Alessandra. Sì, perché questa mattina vicino a piazza Tiananmen, siamo dunque nel cuore di Pechino, 3 persone si sono date fuoco. Ci colleghiamo allora con la capitale cinese. Antonio Talia, che cosa si sa di quanto è accaduto? Dunque, sono le 8 di sera qui all'incrocio fra Chang'an e Huafengjing, che è un'importante via commerciale di Pechino. Qui il passeggio stradale sta proseguendo indisturbato. L'unico lieve segnale di tensione è qualche pattuglia di polizia al momento ne contiamo 4, eppure è proprio qui che alle 3 del pomeriggio, alle 8 del mattino, ora italiana, 3 uomini in un'auto si sono dati fuoco. Non è stata resa nota l'identità dei 3 uomini, non si sa di che etnia, a quale etnia appartengano, eppure proprio oggi si festeggia il Capodanno tibetano. Nei giorni scorsi Dalai Lama aveva invitato dal suo esilio a non festeggiarlo per commemorare le vittime degli scontri dell'anno scorso, che si sono verificate appunto in questi giorni l'anno scorso. I tre uomini sarebbero ancora vivi. Il suicidio rituale per protesta, tra l'altro, non è una pratica diffusa tra i tibetani, quindi nessuno è in grado di dire se il gesto sia da attribuire ad altri gruppi o se invece stiamo assistendo a un innalzamento del livello di scontro tra attivisti tibetani e il governo cinese. Antonio Italia, GR24, grazie, 24 ore, Pechino. Grazie Antonio per questi aggiornamenti. Veniamo alla cronaca italiana adesso. Sì, veniamo alla cronaca, il bruttissimo caso di cronaca a Napoli, il ragazzo 12enne violentato vicino alla stazione centrale. Si cerca ancora l'uomo responsabile dello stupro. Ora è ricoverato all'ospedale Santo Bono, dove ad assisterlo c'è anche una psicologa per aiutarlo a superare il trauma. Il 12enne ha raccontato di essere stato avvicinato da un uomo italiano sui 50 anni con barba e capelli brizzolati che gli avrebbe prima chiesto dei soldi e poi lo avrebbe trascinato in un vicoletto non lontano dalla stazione centrale. È lì che, dopo averlo picchiato, l'uomo ha abusato di lui. Il ragazzino ha riportato lacerazioni e contusioni, ma il suo stato di salute viene definito abbastanza buono dai sanitari. La prognosi è di 7 giorni. Oggi, su richiesta della magistratura, vengono esaminate le tracce organiche rinvenute sul corpo del 12enne che potrebbero aiutare gli investigatori a individuare il responsabile. Intanto emergono particolari non confermati dagli inquirenti. Alcuni coetanei che giocavano a pallone con il ragazzo lo avrebbero visto allontanarsi con 2 cittadini stranieri in evidente stato di ubriachezza. Enzo Danna, GR24, Il Sole 24 Ore, Napoli. E non è stato ancora rintracciato l'uomo, un marocchino, padre di una bimba di 2 anni e compagno di una donna, trovata sgozzata ieri sera in un appartamento di Castagnole di Paese, provincia di Treviso. Nei confronti dell'uomo non c'è al momento alcuna accusa specifica. Polizia e carabinieri lo stanno cercando per chiarire la sua posizione in merito al duplice omicidio. È attesa per oggi pomeriggio la sentenza di secondo grado per il crollo della scuola di San Giuliano di Puglia durante il terremoto del 31 ottobre del 2002. Morirono 27 bambini e un insegnante. In primo grado furono tutti assolti, erano accusati di omicidio colposo plurimo, disastro colposo, lesioni colpose, l'ex sindaco, il progettista della sopraelevazione della scuola, un geometra del comune e 3 costruttori. La politica italiana e soprattutto quel che sta accadendo nel Partito Democratico dopo le dimissioni di Walter Veltroni e la nomina di Dario Franceschini a capo del partito. Fra gli 8 nuovi nomi che Franceschini ha scelto per la sua segreteria, la metà sono giovani. E fra loro c'è Federica Mogherini, 36 anni, l'ha intervistata Valentina Furlanetto. Io spero che riusciremo innanzitutto ad essere uniti, a parlare all'esterno con una voce sola, con una voce chiara e soprattutto ad interessarci dei problemi dell'Italia e non dei nostri. Io credo che il Partito Democratico nelle ultime settimane abbia dato l'impressione, a volte abbia fatto più ragionamenti su se stesso, sulla vita politica del Paese, piuttosto che invece su una situazione reale del Paese che è davvero drammatica. Abbiamo una crisi economica esattamente pesante come quella degli altri Paesi e l'unico governo occidentale che invece non l'ha affrontata con un piano veramente straordinario. Si parla molto di ricambio generazionale. Oggi un altro giovane del PD, Sandro Gozzi, in un'intervista a un quotidiano, propone le quote grigie. Lei cosa ne pensa? Siamo un paese sicuramente che fa fatica a rinnovare. Il vero problema è nel resto della società italiana. Sappiamo benissimo che si fa fatica a uscire di casa, si fa fatica a fare figli, a sposarsi, a pensare di avere un lavoro stabile fino ai 40-45 anni. Il precariato non è più un problema dei giovani, è un problema di chi ha la mia età. In nessun'altra parte del mondo chi ha la mia età è considerato giovane. Se c'è un così forte malcontento della base del PD, soprattutto un'esigenza di rinnovamento da parte dei giovani, perché all'assemblea di sabato sono mancati 1300 delegati? È una buona domanda. Credo che è esattamente quella sulla quale dobbiamo ricominciare. Una notizia che arriva da Gaza, che è appena arrivata: elicotteri israeliani da combattimento hanno sferrato un attacco nella tarda mattinata nella zona di Rafah, a sud della striscia, secondo quanto riferiscono fonti locali. I velivoli, aggiungono le fonti, hanno colpito in particolare tunnel palestinesi di contrabbando. Fino ad ora non si ha notizie di vittime. In mattinata alcuni miliziani palestinesi avevano sparato due razzi contro il territorio israeliano. E restiamo all'estero. Sì, restiamo virtualmente proprio in Medio Oriente, perché oggi apre il Museo Nazionale di Baghdad, quello che durante i combattimenti del 2003 fu saccheggiato, diventando così il simbolo del caos che c'era in quel momento nel paese. È stato restaurato grazie ai finanziamenti di Italia e Stati Uniti. E oggi a Roma c'è stata la presentazione dell'evento. Chiara Di Michele, buongiorno. Sì, buongiorno. Due giorni fa, il 23 febbraio, il Museo di Baghdad, dopo 18 anni di chiusura, è stato riaperto, seppur parzialmente, ai visitatori. Fondamentale il contributo dell'Italia, come hanno spiegato i ministri degli esteri e dei beni culturali Frattini e Bondi nel corso della conferenza stampa. Il nostro paese è stato in prima linea nella ricostruzione e nel recupero delle opere del museo. Tra il 10 e il 12 aprile, infatti, del 2003, a seguito degli eventi bellici, il museo fu saccheggiato, danneggiato e privato di migliaia di reperti eccezionali. 12 giorni dopo, una delegazione governativa italiana giunse a Baghdad per definire i tempi e i modi del nostro contributo alla ricostruzione dell'Iraq e alla riabilitazione del museo. Sono stati così recuperati 1636 reperti archeologici, tra cui la Dama di Uruk, e nel 2006 è iniziata la vera e propria riabilitazione dei locali del museo. Oggi è possibile visitare la Galleria Assira, la Galleria Islamica e il cortile nel quale sono esposte statue di epoca romano-parta. GR Extra Large, queste le principali notizie della giornata. Un aereo della compagnia di bandiera turca Turkish Airlines è precipitato ad Amsterdam in Olanda. Secondo alcune fonti, sul Boeing 737 che si è spezzato in tre parti viaggiavano 137 persone. Si parla di almeno 5 vittime. In Cina in tre si sono dati fuoco a meno di un chilometro da piazza Tiananmen. Nessuno di loro è morto, solo uno è stato portato in ospedale. I motivi del gesto non sono chiari, anche se qualcuno pensa alla coincidenza con il capodanno tibetano. Primo discorso al congresso per il presidente americano Barack Obama, che ha parlato prevalentemente di economia. Ricostruiremo e ci assumeremo ancora la responsabilità del futuro, ha detto. L'anestesista Amato De Monte, indagato dalla procura di Udine per alcune foto scattate ad Eluana Englaro durante la permanenza nella clinica La Quiete, si ipotizza il reato di inosservanza del protocollo che vietava la ripresa di immagini. Ma gli scatti, precisa il legale del medico, servivano proprio per testimoniare la stretta osservanza delle regole. Le vendite al dettaglio hanno fatto segnare un calo pesante su base mensile, lo 0,6%, mai così da 12 anni. Il calo su base annua è dell'1,9%, mentre l'ISAE prevede una discesa del PIL del 2,5% e una disoccupazione all'8%. È stato eletto il nuovo presidente della Corte Costituzionale, è Francesco Amirante, che faceva parte della Consulta dal 2001. Portavano illegalmente d'Italia minorenni bulgare per venderle come spose a componenti di clan nomadi, da cui venivano costrette a commettere furti e borseggi a Roma e in altre città. 11 arresti nella capitale. Torna il nucleare in Italia dopo 22 anni dal referendum che disse no allo sviluppo di questa tecnologia. Ieri, e ve ne abbiamo parlato ampiamente, la firma dell'accordo fra Silvio Berlusconi e Nicolas Sarkozy. L'Enel, lo ricordiamo, e la francese EDF si impegnano a costruire 4 centrali nucleari di terza generazione, la prima entro il 2020. Tutto questo sempre che il DDL del ministro dello sviluppo economico Claudio Scajola, che prevede appunto il ritorno del nucleare in Italia, venga approvato dal Parlamento. Ma dove potrebbero essere costruite le nuove centrali? Cristina Balotelli l'ha chiesto a Chicco Testa, ex presidente dell'Enel. I 4 impianti che ci sono in Italia non possono più essere utilizzati perché avevano già concluso la maggior parte di loro la loro vita all'epoca del referendum e comunque sono di una tecnologia ormai superata. Questo non vuol dire che non si possono riutilizzare quei siti. Credo che questi siti abbiano in grande parte le caratteristiche idonee. Sarebbe importante per l'Italia avere degli impianti in funzione? Penso che un contributo dell'energia nucleare alla produzione di energia elettrica in Italia sarebbe una cosa importante. Fra l'altro ricordo tutti che in questo momento ci sono in Francia probabilmente 6-7 centrali nucleari che stanno lavorando a tempo pieno per esportare energia verso l'Italia, cioè quindi noi stiamo continuiamo ad utilizzare grandi quantità di energia nucleare, solo che la produciamo all'estero. Diciamo che per quanto riguarda gli incidenti, non metterei le centrali nucleari in testa alla lista delle preoccupazioni. Abbiamo una percezione del rischio che è spesso molto diversa dal rischio vero. Se studiassero appunto di costruire nuovi impianti, dove andrebbero fatti in Italia, viste le caratteristiche del nostro territorio? Questo non glielo so dire, vanno fatti nei posti dove i criteri di sicurezza corrispondono esattamente al fabbisogno di questo tipo di impianti. Constato una cosa, che se tutti fanno come ha fatto il nostro primo ministro Silvio Berlusconi, il quale è andato in Sardegna e ha detto state tranquilli, votatemi perché tanto non farò nessuna centrale nucleare in Sardegna, visto che l'anno prossimo si vota in tutta Italia, c'è il rischio che analoghe promesse elettorali rendano praticamente inadatta la gran parte dell'Italia. Quindi c'è il rischio che alla fine non si facciano queste centrali? No, c'è il rischio, sicuramente avremo delle opposizioni da parte dei movimenti ambientalisti, da parte di comitati locali, eccetera, eccetera. C'è il rischio che io chiamo della viltà della classe politica. E l'accordo firmato fra Italia e Francia ha naturalmente riaperto il dibattito sul nucleare. Gianni Silvestrini, che è presidente del Kyoto Club, un club che ha scelto di investire in energie rinnovabili, dice: investire oggi sul nucleare è anacronistico, antieconomico e peserà sulle bollette degli italiani. Sentiamolo al microfono di Cristina Carpinelli. Noi ci troviamo di fronte a degli obiettivi al 2020 molto ambiziosi sul versante della riduzione delle emissioni di gas climalteranti e delle fonti rinnovabili, obiettivi legalmente vincolanti, cioè pagheremo sanzioni se non li raggiungeremo. In particolare per le fonti rinnovabili si tratta di investimenti di carattere gigantesco, 350 miliardi di euro solamente per la parte di elettricità verde. In sostanza per le nostre industrie sul versante delle rinnovabili e dell'efficienza energetica si apre una strada, straordinaria occasione di produzione di tecnologie e così via. E sul nucleare temo che appunto chi si avvantaggerà sono le industrie francesi, ma io mi sono fatto un'idea di momento in cui si parla di riscaldamento del pianeta, prezzi di energia che l'anno scorso erano molto alti, adesso sono bassi ma torneranno alti, ci sia tentazione da parte del mondo politico e da parte di un pezzo del mondo delle imprese di trovare una soluzione salvifica che risolva tutti i problemi. Il nucleare ha dimostrato di non essere una soluzione così salvifica. Io penso che al momento in cui adesso le industrie dicono faremo tutto con i soldi nostri, non prenderemo soldi dallo Stato, io temo che al momento in cui si andrà al concreto si arriverà a un'altra formula tipo quella del CIP6 di 15 anni fa, e cioè che andrà a finire sulle bollette una parte del costo degli investimenti nucleari, perché parliamo di cifre colossali. E domani a Quartaccio, comune di Montalto di Castro, tra il Lazio e la Toscana, comincia la costruzione del più grande impianto fotovoltaico d'Italia. È solo la prima pietra, ma potrebbe essere l'inizio di un nuovo corso. A dire la verità, in Italia qualche impianto c'è, ma questo potrebbe rappresentare la svolta, tanto attesa dagli ambientalisti e non solo da loro, perché la svolta potrebbe essere ecologica e anche economica. L'impianto fotovoltaico che nasce a Montalto di Castro sorge su una superficie di 60 ettari. Lo realizza la Cassiopea, società del gruppo Sunray, multinazionale impegnata nello sviluppo in tutta Europa delle energie rinnovabili, in particolare di quelle da fonte solare. Il sindaco di Montalto di Castro, Salvatore Carai. È un impianto di 24 mega, più grande d'Italia, potrà soddisfare circa 6.500 abitanti. Investimento privato, noi non abbiamo fatto altro che dare il nostro assenso a questa iniziativa. Il sito in questione nasce vicino a un altro impianto, questo targato Enel, che ha una potenza di 6 megawatt. Insieme potranno evitare l'emissione di più di 22.000 tonnellate di CO2 all'anno. Ma a Montalto hanno progetti ambiziosi, vogliono soddisfare i bisogni energetici di circa 10.000 famiglie. Abbiamo altri 3 impianti da 2 mega, abbiamo previsto circa 50 mega in tutto. Strana coincidenza questa, la costruzione dell'impianto fotovoltaico comincia proprio mentre Italia e Francia firmano accordi sul nucleare, accordi che parlano di 4 centrali da costruire, la prima per il 2020. Bisognerà trovare i siti adatti e qualcuno ha ritirato fuori il nome di Montalto. dove nel 1986 i lavori per la centrale nucleare erano quasi finiti. Il referendum popolare poi bloccò tutto e la prevista centrale fu convertita in quello che oggi è il più grande impianto termoelettrico italiano. Valeria De Rosa, GR24, Il Sole 24 Ore. Beh, c'è una buona notizia per lo sport italiano. Sapete che ieri Arianna Follis ha vinto la gara di sprint a tecnica libera ai mondiali di sci nordico di Liberec. Ebbene, altra medaglia per la stessa Follis e per una sua collega quest'oggi. Sì, insieme a Marianna Longa, Arianna Follis, scusate, ha vinto la medaglia di bronzo nella staffetta sprint a coppia tecnica classica ai mondiali di sci nordico di Liberec nella Repubblica Ceca. L'oro è stato conquistato dalla Finlandia, l'argento dalla Svezia. Simboli dell'Italia, anche i nostri sportivi, Alessandra. Sì, non solo simboli, sono segni, suoni, odori, oggetti, marche. Insomma, adesso capirete di che cosa stiamo parlando. Parliamo di tutte le piccole cose che costituiscono l'immaginario degli italiani. Sono un po' degli insospettabili punti di riferimento. Italiani conoscono e riconoscono i baci Perugina come la Nutella o la signora del doppio brodo Star. A raccogliere questi simboli nel volume Italianità, edito da Corraini, il designer Giulio Iacchetti. Si sono mantenuti immutati nel tempo, poi a volte raccontano anche certe fortune del tutto casuali. Per esempio la bicicletta Graziella Carnielli non esiste più sul mercato, però identifica il modello. Quindi se io stasera dico esco con la Graziella, nessuno pensa che abbia delle storie parallele. Ecco. La memoria degli italiani è fatta anche di suoni. Fossi anche a Melbourne e sento questo suono, un contatto immediato spazio-temporale con l'Italia, con qualcosa che per me è una sorta di inno nazionale. Se non ho più questo link, qualcosa si perde. Guadagneremo qualcosa, ma qualcosa si perde. E adesso tutti all'agile. Ogni tanto i marchi cambiano. Ci siamo abituati a dire Telecom invece di SIP. Il vecchio Totocalcio rimaneva per gli anziani la Sisal. Presto andrà in soffitta il nome Agip e sui distributori potremmo leggere semplicemente Eni. Ma io credo che le sostituzioni, i cambi siano leciti. Non sono animato da spirito nostalgico. Certo che se noi perdiamo totalmente per il logo dell'Agip il cane a sei zampe, perdiamo irrimediabilmente qualcosa nel nostro immaginario collettivo. Ogni tanto però cambiare non fa bene. Per la coppa del nonno, questo strano contenitore packaging progettato quando probabilmente non c'era ancora tutta questa sensibilità legata alla confezione dei prodotti, questa cosa è nata negli anni 50. Poi all'inizio degli anni 90 persone nuove del marketing ha ritenuto opportuno toglierla dalla produzione perché si manteneva ma non aveva più dei picchi di crescita. Bene, una volta tolta dal listino la Mota ha ricevuto tantissime lettere di protesta ed è stata in qualche modo costretta a rimettere in produzione questo tipo di confezione. Bisogna stare molto attenti e agire con delicatezza nei riguardi di prodotti che ormai non appartengono più a un'azienda, ma appartengono alle persone. Marta Cagnola, GR24, Il Sole 24 Ore. GR Extra Large, queste le notizie principali della giornata. Un aereo della compagnia di bandiera turca Turkish Airlines è precipitato ad Amsterdam, in Olanda. Ancora incerto il numero delle vittime. Il Boeing 737 si è spezzato in tre parti. A bordo viaggiavano 137 persone. In Cina tre persone si sono date fuoco a meno di un chilometro da piazza Tiananmen. Nessuna è morta, solo una è stata portata in ospedale. I motivi del gesto non sono ancora chiari, anche se qualcuno ipotizza la coincidenza con il capodanno tibetano. Il primo discorso di Barack Obama al Congresso, tutto incentrato sull'economia. Il peso della crisi non determinerà il destino della nazione. Le risposte ai nostri problemi non sono fuori dalla nostra portata, ha detto il presidente americano, che ha così cercato di ridare fiducia alla nazione depressa e preoccupata dalla crisi. L'economia è indebolita, ha detto, ma si riprenderà. L'anestesista Amato De Monte, indagato dalla procura di Udine per alcune foto scattate ad Eluana Englaro durante la permanenza nella clinica La Quiete, si ipotizza il reato di inosservanza del protocollo che vietava la ripresa delle immagini. Ma gli scatti, precisa il legale del medico, servivano proprio per testimoniare la stretta osservanza delle regole. Non è ancora stato rintracciato l'uomo, un marocchino padre di una bimba di 2 anni e compagno di una donna trovate sgozzate ieri sera in un appartamento di Castagnole di Paese, provincia di Treviso. Nei confronti dell'uomo non c'è al momento alcuna accusa specifica. Polizia e carabinieri lo stanno cercando per chiarire la sua posizione in merito al duplice omicidio. Vendite al dettaglio mai così in calo da 12 anni su base mensile. In dicembre si è registrato un calo dello 0,6%. Su base annua, invece, la discesa è stata dell'1,9%. Le notizie preoccupanti arrivano anche dalle previsioni dell'ISAE, che vede un calo del PIL del 2,5% e una disoccupazione all'8%, questo nel 2009. È stato eletto il nuovo presidente della Corte Costituzionale, è Francesco Amirante, che faceva parte della Consulta dal 2001. Portavano illegalmente in Italia minorenni bulgare per venderle come spose a componenti di clan nomadi, da cui venivano costrette a commettere furti e borseggi a Roma e in altre città. 11 arresti nella capitale. Adesso ritorniamo ad Istanbul per l'aereo della compagnia di bandiera turca Turkish Airlines, che è precipitato questa mattina in fase di atterraggio nell'aeroporto di Amsterdam. Ci sono aggiornamenti e novità, Marta Ottaviani, anche dalle autorità turche? Sì, buongiorno. Purtroppo le autorità turche questa mattina avevano peccato di eccessivo ottimismo. È ormai quasi certa la notizia che i morti nel disastro aereo di questa mattina siano in realtà 10 e non 0, come il ministro dei trasporti Binali Yildirim aveva detto alle telecamere subito dopo lo schianto. C'è ancora una differenza, diciamo, di versioni tra le autorità olandesi e quelle turche. Le autorità olandesi dicono che i morti sarebbero tra i 8 e i 9 e invece l'autorità adesso dicono che i morti sarebbero 10. Non sono ancora state chiarite nemmeno le cause dell'incidente. Comunque che non sia dovuto ad attentato nient'altro, ma a un guasto tecnico. Il premier Erdogan prima, davanti alle telecamere della TV di Stato, ha detto che saranno fatte tutte le indagini del caso e ha comunque voluto sottolineare che l'aereo era stato revisionato l'ultima volta nel dicembre del 2008. Il ministro degli esteri Ali Babacan, questa mattina subito dopo lo schianto, ha detto che l'incidente non poteva essere stato assolutamente causato da un ordigno a bordo sull'aereo. Per il momento da Istanbul è tutto, vi restituisco la linea. E grazie Marta Ottaviani anche per questi aggiornamenti. Noi torniamo all'Italia, Alessandra. Sì, torniamo in Italia perché è stato scelto il nuovo presidente della Corte Costituzionale, Francesco Amirante, è stato eletto a scrutinio segreto dai 15 giudici della Consulta. 7 giorni dopo la scadenza del mandato di Flick, la Consulta ha il suo nuovo presidente, il 33esimo, e subito Francesco Amirante, 75 anni, napoletano, detta la sua linea sulle principali questioni su cui la Corte Costituzionale è stata chiamata a prendere posizione. Nessuna accelerazione né ritardo, mette in chiaro sulla pronuncia sul lodo Alfano, quello che sospende i procedimenti per le alte cariche dello Stato, ma solo una decisione, come sempre, dice Amirante, nella massima serenità della Corte, la cui indipendenza e autonomia va rispettata, come rispettata è il monito del neo presidente, deve essere la libera stampa, che è la massima garanzia. Non può sbilanciarsi Amirante su eventuali pronunce della Corte sul disegno di legge sulle intercettazioni all'esame della Camera. Di sicuro invece si impegna ad affrontare molto rapidamente, ripete, la questione della distruzione dei dossier illeciti sollevata dal Tribunale di Milano nell'inchiesta Telecom, pendente da quasi 2 anni. È stata continuamente posticipata, ma ora, assicura il neo presidente, non ci saranno altri rinvii. Chissà se mai arriverà una pronuncia prima dell'udienza del 24 marzo fissata a Milano dal GIP Gennari. Ma alla Consulta c'è un'altra delicata questione che giace da tempo, partita ancora una volta da Milano, ed è il conflitto di attribuzione tra poteri sul segreto di Stato relativo al sequestro Abu Omar. Raffaella Calandra, GR24, Il Sole 24 Ore. L'anestesista Amato De Monte è indagato dalla procura di Udine in relazione ad alcune foto scattate ad Eluana Englaro durante la permanenza nella clinica La Quiete, dove la donna, lo ricorderete, è morta il 9 febbraio. Nei suoi riguardi la procura ipotizza il reato di inosservanza dei provvedimenti dell'autorità. De Monte, tramite il suo legale, si difende spiegando che le foto, che sono di carattere clinico, sono state scattate per testimoniare l'attuazione del protocollo. E adesso c'è ancora cronaca, perché non è stato ancora rintracciato l'uomo. Si tratta di un marocchino che è padre di una bimba di 2 anni e l'ex compagno di una donna, che sono state trovate morte, sgozzate, ieri sera in un appartamento in provincia di Treviso. Sentiamo. Una mattanza in un appartamento di un tranquillo condominio a Castagnole di Paese. Una giovane di 36 anni e la sua bambina di appena 2 anni sono state uccise con diverse coltellate, alcune delle quali alla gola. Sulle mani di Elisabetta Leder, infermiera in una casa di riposo di Treviso, i segni evidenti di un disperato tentativo di difesa dai fendenti. Gli investigatori stanno cercando l'ex convivente della donna, padre della bambina, un marocchino senza permesso di soggiorno, espulso da alcuni mesi, ma che a quanto pare era rientrato clandestinamente da pochi giorni in Italia. A carico dell'uomo comunque al momento non ci sarebbe alcun indizio di colpevolezza, dato che anche la dinamica del duplice omicidio non è ancora chiara e tantomeno un possibile movente. Il PM Antonio Miggiano parla di una violenza non premeditata, di un probabile raptus. Ha precisato che gli investigatori stanno cercando il marocchino proprio per tentare di fare chiarezza sulla sua posizione. A trovare i corpi di Elisabetta e della piccola Arianna sono stati i familiari. L'infermiera infatti ieri sera era attesa per cena a casa dei genitori che, non vedendola arrivare, hanno mandato suo fratello a cercarla. Di fronte agli occhi del giovane si è presentato l'orrore in un appartamento in cui luce e televisione erano rimaste ancora accese. Silva Menetto, GR24, Il Sole 24 Ore, Treviso. Parliamo ora di ambiente per il treno verde di Legambiente, la campagna di rilevamento dell'inquinamento atmosferico e acustico delle città italiane. Questa mattina sono stati diffusi i dati sui primi 2 mesi del 2009 che riguardano il superamento dei limiti del PM10. E allora sentiamo Vittorio Cogliati Dezza, presidente di Legambiente. Il dato di quest'anno, diciamo, ci dà 2 segnali significativi. Il primo è che le città che hanno la massima quantità di produzione di polveri sottili sono sempre le stesse. L'altro anno hanno vinto la classifica Torino e Frosinone e quest'anno in terza alla classifica ci sono sempre Torino e Frosinone. La seconda è che 5 città hanno già superato i limiti previsti dalla legge. La legge prevede che non si possano sforare i 50 microgrammi per metro cubo di polveri sottili per non più di 35 giorni. Torino e Frosinone l'hanno superato per 41, poi Brescia, Sondrio e Alessandria per 38 e Milano per 35 giorni. E la cosa grave è che questo è avvenuto in un periodo di grandi piogge e di grandi nevicate, per cui queste condizioni atmosferiche dovevano far pensare a una riduzione delle emissioni, della produzione di polveri sottili. Torniamo all'economia. Abbiamo parlato nella prima parte di XL delle difficoltà di quella americana, parliamo adesso delle difficoltà della nostra. Secondo le previsioni diffuse oggi dall'ISAE, il PIL italiano nel 2009 scenderà del 2,5%, ci sarà poi una lieve ripresa nel 2010, si parla di una disoccupazione che arriverà all'8,1% nel 2009 e si prevede sempre per il 2009 una perdita di 240.000 posti di lavoro. Non vanno meglio le cose, Alessandra, sul fronte delle vendite al dettaglio? In questo caso i dati sono stati diffusi questa mattina dall'Istat e le vendite al dettaglio non sono mai state così in calo da 12 anni a questa parte. Vediamo rapidamente i dati. A dicembre c'è stato un calo dello 0,6% su base mensile, mentre c'è stata una discesa dell'1,9% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. In controtendenza, in questo quadro economico difficile che avvolge un po' tutto Europa e un po' tutto il pianeta, i francesi. Giulia Crivelli, è così? Buongiorno, è il titolo quasi a caratteri cubitali, forse per evidenziare ancora di più la buona notizia, dare un segnale di fiducia di Le Figaro. Il titolo è: malgrado la crisi, i francesi consumano. Il dato di gennaio è che i consumi sono aumentati dell'1,8% contro un meno 1,9% di dicembre. Secondo Le Figaro è un sicuramente merito di tutte le promozioni, di tutti i modi in cui i commercianti hanno cercato di invogliarci a consumare, per quanto riguarda anche le macchine, perché persino le vendite di auto sono andate in Francia meglio che altrove. Contribuisce anche il fatto che la benzina è scesa molto in Francia, probabilmente ha seguito il prezzo del petrolio più di quello che abbia fatto in Italia, e quindi i francesi tutto sommato hanno dato questo segnale di ottimismo, e giustamente Le Figaro apre il giornale con questa notizia. Passiamo invece in Gran Bretagna. La Gran Bretagna, a parlare dei pendolari pendolari, pendolari che usano il treno. Sì, i pendolari naturalmente sappiamo in Gran Bretagna, nel modello anglosassone in generale c'è molto più questo pendolarismo anche tramite i treni che tradizionalmente funzionano un po' meglio. Per favorire chi in questo momento di difficoltà ha anche questa spesa fissa, inderogabile dell'abbonamento del treno, è previsto un abbassamento delle tariffe. Questo farà naturalmente felici tutti quelli che devono prendere il treno, sarà probabilmente un colpo abbastanza duro per le ferrovie che già la Thatcher aveva in parte privatizzato e che quindi devono contare sulle entrate per far quadrare i bilanci. In realtà secondo il Times, che però è un giornale diciamo molto conservatore, questo potrebbe poi essere un boomerang, perché se i bilanci sono troppo colpiti alla fine le ferrovie saranno costrette a ridurre i servizi e magari anche a licenziare delle persone, quindi come sempre c'è qualcuno che ci guadagna e qualcuno che potrebbe perderci. Giulia, torniamo in Francia per parlare della collezione di Yves Saint Laurent. Insomma, la crisi non sembra colpire gli acquisti, mettiamola così, di super lusso. Sì, anche qui una sorpresa positiva. Tutti pensavano, magari anche avendo visto i risultati di altre aste d'arte, come quelle di Christie's a New York, che quest'asta della collezione d'arte di Yves Saint Laurent, che l'ex compagno, cioè che il compagno Berger ha messo in vendita, sarebbe stato un mezzo flop, perché sono pezzi preziosissimi, con delle basi d'asta altissime. Invece no, è stato un record assoluto, ha superato quasi 250 milioni di euro finora, potrebbero aumentare ancora questa cifra, e comunque è già record per la vendita di una collezione privata, quindi un altro segnale di ottimismo. Insomma, guardiamo la Francia oggi come un piccolo faro europeo di segnali positivi. Grazie Giulia Crivelli. A proposito Yves Saint Laurent, insomma simbolo della moda, e a proposito di moda, al via oggi a Milano la settimana delle sfilate, si presentano le collezioni donna per l'autunno-inverno 2009-2010. 92 sfilate e 97 presentazioni in una settimana. Non c'è stata una drastica cura dimagrante per il calendario di Milano Moda Donna. Nonostante la difficile congiuntura internazionale, il capoluogo lombardo attende con fiducia l'arrivo di compratori e giornalisti da tutto il mondo. Certo, alcuni stilisti hanno preferito rinunciare alla costosa passerella, in molti casi inutile quando i contenuti creativi del prodotto non sono poi così eccelsi. E mentre fra oggi e domani si inaugurano nel quadrilatero quattro negozi, Kenzo, Blue Girl, Franchi Morello e Mauro Grifoni, l'unico che si le ferite Roberto Cavalli, costretto a cancellare la sfilata della collezione Just perché la ITR in commissariamento gli ha consegnato soltanto la metà dei capi necessari. Paola Bottelli, GR24, Il Sole 24 Ore. GR Extra Large, queste le principali notizie della giornata. Una notizia innanzitutto arrivata poco fa: la Procura della Repubblica di Roma ha chiesto l'archiviazione per il Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi e per l'ex direttore di Rai Fiction Agostino Sacca in relazione alla vicenda legata alle raccomandazioni di 5 attrici per la produzione di Fiction TV in cambio di un sostegno finanziario lo stesso Sacca. Un aereo della compagnia di bandiera turca Turkish Airlines è precipitato questa mattina ad Amsterdam in Olanda. Secondo alcune fonti sarebbero una decina le vittime. Il Boeing 737 si è spezzato in tre parti. A bordo viaggiavano 137 persone. In Cina tre persone si sono date fuoco a meno di un chilometro da piazza Tiananmen. Nessuno di loro è morto, solo uno sarebbe stato portato in ospedale. I motivi del gesto sono chiari, anche se qualcuno pensa alla coincidenza con il capodanno tibetano. Il peso della crisi non determinerà il destino della nazione. Le risposte ai nostri problemi sono fuori dalla nostra portata. Così Barack Obama nel suo primo discorso al Parlamento. Vendite al dettaglio mai così in calo da 12 anni su base mensile. In dicembre si è registrato un calo dello 0,6%, su base annua la discesa è stata dell'1,9%, notizie preoccupanti anche dalle previsioni dell'ISAE, che vede un calo del PIL del 2,5% e una disoccupazione all'8,1% nel 2009. È stato eletto il nuovo presidente della Corte Costituzionale, Francesco Amirante, che faceva parte della Consulta dal 2001. Di nuovo in collegamento con Istanbul, con Marta Ottaviani, perché ci sono ulteriori aggiornamenti sulla vicenda dell'aereo caduto. Marta. Allora, anzitutto i morti, come abbiamo detto prima, anziché 9 potrebbero essere 10, questo almeno ipotizza la NTV citando fonti di Ankara. C'è poi la notizia però non confermata della presenza di un passeggero aereo sul Boeing che questa mattina si è schiantato a poca distanza, diciamo, dall'aeroporto di Amsterdam. Il problema in questo momento un passeggero, è che scusami, Marta, un passeggero italiano dicevi, non un passeggero, esatto, aereo, un passeggero italiano. italiana, infatti, mentre il secondo canale della TV di Stato ha ipotizzato appunto la presenza di questo passeggero, la rete privata MTV, che ha pubblicato la lista dei passeggeri a bordo dell'aereo, insomma, non figurano persone con il nome italiano all'interno di questa lista. In questo momento le autorità consolari sono al lavoro per verificare questa notizia. Intanto ne è arrivata proprio un'altra in questo momento: 25 feriti sarebbero in gravi condizioni. E grazie Marta Ottaviani anche per questi aggiornamenti. E passiamo all'altro argomento: la lotta alla povertà, la riaffermazione dei diritti umani in risposta alla crisi finanziaria globale. Se ne è parlato questa mattina a Milano in occasione della presentazione del rapporto 2008 di Social Watch, la rete internazionale presente in oltre 60 paesi. Progressi troppo lenti e in alcuni casi inesistenti sul fronte della lotta alla povertà rispetto agli obiettivi del millennio stabiliti nel 2000 al summit delle Nazioni Unite. È quanto emerge dal rapporto 2008 di Social Watch. Dal 2000 ad oggi, infatti, solo in 21 nazioni sulle 176 monitorate si è verificato un miglioramento delle condizioni di vita della popolazione, mentre in alcune zone, come l'Africa subsahariana, si è registrata addirittura una regressione. Dati preoccupanti che dimostrano, secondo gli organizzatori, come sia insufficiente considerare la povertà solo in base al reddito pro capite e che devono far riflettere sulle conseguenze sociali che porterà la crisi economica, come spiega Maria Rosa Cutillo dell'associazione Manitese, membro di Social Watch Italia. Le conseguenze di questa crisi, ovviamente, nonostante le previsioni che sono state fatte, non sono ancora quantificabili, non sono ancora note. Quello che possiamo dire è che avrà degli impatti molto forti, soprattutto su alcuni diritti fondamentali. Per esempio il diritto all'istruzione, per esempio il diritto al cibo. Un capitolo a parte è invece quello dedicato al divario fra uomini e donne nella società. Se a sorpresa il Ruanda ha raggiunto il quinto posto della classifica, dimostrando come il progresso sociale non sia sempre legato alla ricchezza di una nazione, l'Italia si ferma in 70ª posizione, superata addirittura da Bolivia e Bielorussia. Alessandra D'Angioggi, R24, Il Sole 24 Ore. Giorni fa la notizia aveva fatto il giro del mondo. Per la prima volta in Arabia Saudita una donna è diventata vice ministro. Ma come hanno reagito i cittadini? Ce ne parla Adib Fateh Ali. In un paese dove solo al maschio è permesso di guidare l'auto, mentre all'altra metà è riservato ogni tipo di discriminazione, si temeva che la nomina di una donna al governo potesse essere non gradita in una società conservatrice come quella dell'Arabia Saudita. Invece, stando ad un sondaggio della TV all'Arabia, la maggioranza dei sauditi approva la storica decisione del re, che il 14 febbraio scorso ha voluto come vice ministro dell'istruzione una giovane donna laureata negli Stati Uniti. Su un campione di 14.000 intervistati, del 47% è un'autentica svolta per migliorare le condizioni femminili. Il 40% dice che si tratta di un esperimento giusto, ma non avrà successo. Per il restante 13%, occupare una piccola poltroncina di sottosegretario da parte di una femmina è un'eccezione irripetibile. Adib Fateh Ali, GR24, Il Sole 24 Ore. Una notizia al momento pubblicata solamente dal sito della Repubblica: sarebbe stato preso l'uomo che ha stuprato un dodicenne lunedì a tarda sera nelle vicinanze di via Renaccia a Napoli. In questo momento è in stato di fermo negli uffici investigativi della squadra mobile di via Medina. Si stanno svolgendo accertamenti sulla sua identità. Il sospetto è stato bloccato dai falchi, la squadra speciale di poliziotti in borghese che a bordo di motociclette perlustra quotidianamente la città. E noi chiudiamo con il calcio. Una curiosa iniziativa in Germania, dove il Colonia ha deciso di farsi aiutare dai tifosi per finanziare il ritorno dell'attaccante Podolski, ora in forza al Bayern Monaco. Sul sito del club si possono acquistare i quadratini digitali del ritratto dell'attaccante. Alcuni gli hanno detto di essere un po' tirchio, per altri è stato generoso. Michael Schumacher ha speso 825 euro per 35 quadratini. Si aggiunge alle centinaia di tifosi e sponsor che partecipano all'iniziativa Pol di Pixels. Bastano 25 euro per aiutare il Colonia a riprendersi Podolski, pronto a lasciare il Bayern a fine stagione. L'idea viene dal responsabile marketing della squadra, che gongola per l'intervento di Schumi. A ieri erano stati raccolti 96.000 euro. I numeri parlano chiaro: ha solo 23 anni, è una stella in nazionale, ma gioca troppo poco. Klinsmann gli preferisce Luca Toni e Miroslav Klose. In 3 stagioni Podolski ha segnato appena 12 gol ed è stato proprio lui a inizio febbraio a dire di voler tornare al Colonia, dove a 21 anni aveva già segnato una 50ina di reti. L'iniziativa sembra certamente più seria del Drogbathlon, la maratona lanciata su internet dai tifosi del Marsiglia per far tornare Drogba dal Chelsea. Là bisognava arrivare a 28 milioni di euro. Qua si punta ad uno solo dei 10 milioni che il Colonia spenderà per il più costoso acquisto della sua storia. Nicola Cardo, GR24, Il Sole 24 Ore. È tutto per questa edizione di GR Extra Large, condotta e curata da Simone Spezia ed Alessandra Tedesco, con al coordinamento Daniele Biacchesi, in regia Fabio Cantadori. Prossimo GR alle 15, Extra Large torna domani alle 13. GR 24, Il Sole 24 Ore, direttore Gianfranco Fabi.